sono pomeriggi in cui non so che fare, in cui vorrei mollare tutto, in cui vorrei cambiare. Ci sono pomeriggi in cui non so che desiderare, è giusto una canzone, mi tira sul morale un po'. Ci sono pomeriggi in cui vorrei chiamarti e dirti che anche tu non mi basti più. Sarebbe razionale, sarebbe solo peggio, sarebbe contraddirmi senza sfiorare la felicità.